meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The World Health Organization has come out and placed processed meats in the same category as, for instance, cigarettes, asbestos or arsenic, saying... Avete sentito il newscaster che parla di un rapporto uscito una decina di giorni fa della World Health Organization, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha diramato un dato piuttosto preoccupante, e cioè che il consumo della carne può portare il cancro. Ecco, alcuni mesi fa mi sono occupato di cancro anche sulla base di un'esperienza personale. Vi dissi allora che avrei affrontato il tema del cancro in alcune delle mie trasmissioni, soprattutto per cercare di diffondere l'idea della prevenzione, che è fondamentale, e per diffondere anche l'idea, come dire, di parlare di questa malattia, che poi è una malattia che non deve essere solo definita come quella brutta malattia, ma come una malattia con cui si deve avere a che fare, si cerca di combatterla. Appena pochi giorni fa, qualcuno di voi lo ricorderà, ne ho parlato con Emma Bonino, che soffre appunto di un cancro. Allora, qual è la novità in questo caso? La novità, ormai di alcuni giorni fa, ma in questi giorni a questo punto se ne parla e si è sollevato un dibattito, che il consumo di carni lavorate, per esempio i wurstel, per esempio i salami, ma anche di carni normali, può portare alla formazione di un cancro. E dunque queste carni vanno inserite nel gruppo 1 a pericolosità più alta, come il fumo e il benzene, cioè fra quelle sostanze che causano il cancro. Il dibattito in questo momento è in corso, siamo passati dalla notizia di alcuni giorni fa alle discussioni fra gli esperti. E io ho con me i microfoni di America 24 Virgilio Sacchini, che è un professore che studia il cancro, ma che è anche uno dei più grandi esperti soprattutto del cancro al seno qui al Memorial Sloan Kettering, che è forse il più importante ospedale dedicato al cancro in America, uno dei più importanti del mondo. Buongiorno professore Virgilio Sacchini. Buongiorno Virgilio. Allora, ci dica un pochino qual è la sua reazione a questa notizia. È un piacere essere con voi a questa trasmissione. Direi che c'è un dibattito molto aperto tra gli specialisti riguardo questa raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che classifica gli insaccati e le carni come potenziali cancerogeni. Niente di nuovo, perché molti composti contenuti negli insaccati sappiamo e sapevamo che erano cancerogeni, e quindi la raccomandazione generica di non consumare carne lascia un po' perplessi, proprio perché non distinguiamo le carni con meno o più cancerogeni che possono avere un impatto. E quali sono questi cancerogeni? I cancerogeni che sono contenuti negli insaccati sono soprattutto i nitrati, i nitriti, che possono aumentare il rischio di tumore del colon. E noi come produzione italiana quindi possiamo, perché non mi pare che ci sia, come diceva lei, molto un'affermazione molto generale, possono esserci dei prodotti di qualità, cioè elaborati in modo naturale, e altri magari più a rischio perché contengono dei chimici? Questa è la differenza? Purtroppo la ricerca epidemiologica non può distinguere il prodotto di qualità dal prodotto non di qualità, ma certamente prodotti con delle lavorazioni naturali in cui le sostanze chimiche vengono usate il meno possibile ha un impatto minore su questo rischio. Quindi l'attenzione a quello che si mangia è un'attenzione importante. In genere in Italia i prodotti insaccati sono prodotti di qualità. Io penso che ci sia un impatto un po' diverso rispetto a prodotti insaccati che vengono prodotti negli Stati Uniti, in altri paesi. Ecco, tutti mangiano carne, diciamo, però una piccola percentuale ha il cancro, altri no. Perché? C'è una predisposizione, a volte genetica, alcuni geni possono produrre degli enzimi che a livello della cellula del colon sono aumentati e creare un rischio di tumore. Dipende anche da alimenti protettivi che si possono assumere, ad esempio la frutta e la verdura può diminuire il rischio, il transito intestinale se si mangia frutta e verdura è minore, quindi i potenziali cancerogeni hanno un impatto minore perché vengono assorbiti in quantità minore, quindi decisamente ci sono altri fattori che possono essere protettivi. La comune aspirina può essere protettiva, può diminuire il 40% il rischio di tumore del colon. Va un po' considerato il rischio nello specifico. Questa è una raccomandazione che noi esperti riteniamo un po' troppo generica. Ecco, nell'identificazione di questo rischio ci sono degli studi, cioè è possibile identificare il soggetto che ha una predisposizione genetica di un certo tipo? Ci sono dei geni mutati che aumentano notevolmente il rischio di tumore del colon a livello familiare, il cosiddetto gene APC, che è un gene mutato che aumenta il rischio nelle famiglie del 30-40% di tumore del colon. Quindi sicuramente l'identificazione di questi soggetti è estremamente importante perché devono avere uno screening molto molto personalizzato. E come si fa come è possibile procedere con l'identificazione di questo gene? Si ricorre a medici specialisti che, valutando l'albero genealogico, il pedigree dell'individuo, identificano il possibile rischio che il paziente possa avere una mutazione e in base al rischio si effettua questo esame genetico, che è un comune esame del sangue in cui il DNA viene sequenziato per vedere modifiche, mutazioni del gene. Ecco, la dieta mediterranea, secondo lei, aiuta a controbilanciare questo rischio? La dieta mediterranea è importantissima, diminuisce il rischio dei tumori, diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari. Noi non mangiamo così tanta carne come in altri paesi, come negli Stati Uniti, e in compenso mangiamo molta verdura, molta frutta che ha effetti protettivi. A colazione io penso che siano molto molto pochi gli italiani che si prendono il bacon, noi ci prendiamo il caffè con la brioche, già questa è una esposizione minore rispetto al... Allora scusi, la interrompo professore, perché devo dirle qual è uno dei miei breakfast favoriti, adesso lo faccio un po' meno, però qui è un 2 eggs over easy with bacon and cheese on a roll, quindi 2 uova fritte col formaggio e con il bacon su questo pane molto morbido, insomma è un'alimentazione che mi mette a rischio? Dipende dalle preferenze personali, io preferisco un buon cappuccino con la brioche, ma... Scusi professore, ma lei da quanto è in America? 15 anni. 15 anni, ma allora sarà stato contagiato anche lei dalle uova fritte o no? Allora, qualche volta sì, qualche volta certamente, ma direi la moderazione è la cosa che modula il rischio. Ma con piacere uno di questi giorni prenderò bacon con le uova fritte alla mattina con lei. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su ameria24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi che, visto che abbiamo parlato di alimentazioni che insomma possono farci sentire più o meno bene, direi che la migliore è quella dei Traffic, Feeling Alright, mi sento bene nonostante il salamino. Seems I've got to have a change of scene, 'cause every night I have the strangest dream. Prison by the way it could be, left here on my own, or so it seems. I've got to leave before I start to scream. Someone's locked the door and took the key. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, boy, you sure took me for one big ride. And even now I sit and wonder why. But when I think of you I start to cry. I just can't waste my time, I must keep trying. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram vi ha presentato America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno. Ringraziamenti Andrea Roccabella in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 e tutti voi per l'ascolto come sempre. Se volete scriverci, effettogiorno@radio24.it, la trasmissione torna domani alle 13 e noi ci risentiamo tra un attimo con GR24. Una buona giornata da Simone Spezia.